Rim MZP Tribe on the mic. Un'ora d'aria non mi calma, cane che abbaia morde mani attacca rabbia, fumandosi una paglia. Muovevo il culo per un mezzo chilo, pesavo sopra un bilancino, l'invito a rifarmi il giro. Ora passo le giornate a non farmi domande, sai se trovo le risposte non avrei più di che farmene. Non credo nel destino né al cattivo aiutante, penso che il problema si presenti in flutti di carattere. Una birretta e una brasa, voglio una vita spericolata restando a casa. Non mi disciti le labbra, ci casiamo alla frutta e la tua pelle è un albicocca in chissà. Secondo il calendario, la vita muore non appena sorge il sole sul sipario a febbraio. Tipo fuori orario, e se mi chiedi di sedermi, io al massimo mi sparo e mi straio. Che cosa c'è di nuovo all'orizzonte? Un fronte cumuliforme, nubi anaconde. Sai che novità, Pantarei tutto scorre. Ma quando sembra fatta poi nessuno ti risponde. Se prima avevo tutto mo non c'ho più un cazzo in testa. La musica è l'orchestra e sta gente come messa. Prima di buttarmi vorrei avere una finestra, ma non è così semplice cantare per protesta. Se prima avevo tutto mo non c'ho più un cazzo in testa. La musica è l'orchestra e sta gente come messa. Prima di buttarmi vorrei avere una finestra, ma non è così semplice cantare per protesta. Non è reale, l'irreale pare realizzabile. Qua porno attrici nane violentano bimbe gravide. Sarti da bandiere per affinità verbali, ma dentro alla mia stanza i fantasmi sono reali. Io prima della fine non vorrei essere grande, potrei ricominciare con il fare lo stuntman. Non vi do questa notizia come un critico d'arte. Le rifiniture di pregevole fattura che si possono ammirare col silenzio assumono un significato decisamente facinoroso nella società moderna. Sono conscio e non perdo conoscenza, ma in questo mare di stronzi non pesco altro che merda. Dimentico le date perché non trovo l'agenda. La mia prosa spontanea prende spunto da Kerouac. Se prima avevo tutto mo non c'ho più un cazzo in testa. La musica è l'orchestra e sta gente come messa. Prima di buttarmi vorrei avere una finestra, ma non è così semplice cantare per protesta. Se prima avevo tutto mo non c'ho più un cazzo in testa. La musica è l'orchestra e sta gente come messa. Prima di buttarmi vorrei avere una finestra, ma non è così semplice cantare per protesta. Sono difficile all'ascolto, alzate un po' il volume, non andateci sotto. Fumo una Pall Blu, filtro corto. C'ho un polmone a ragù e grazie a Dio me ne fotto. Amore mio, c'hai bisogno d'aiuto. Lo sai che sei la più stupenda zozza che ho avuto. Io non mi riconosco più da quando ho perso i contatti, una farfalla tra le mani tu. Non criticare che nessuno qua ti critica. Chi rosica non risica, la fisica e la chimica. Non chiedo mai perdono perché sbaglierei la mimica, però ti porterei a cena fuori su in collina. Non gioco più alla sniper che perdo soldi in nero. Sono senza dinero, sono più toro torero. Con il motto tutto scorre, vorrei vivere sereno. E canto dalla finestra questa protesta per il cielo. Se prima avevo tutto mo non c'ho più un cazzo in testa. La musica è l'orchestra e sta gente come messa. Prima di buttarmi vorrei avere una finestra, ma non è così semplice cantare per protesta. Se prima avevo tutto mo non c'ho più un cazzo in testa. La musica è l'orchestra e sta gente come messa. Prima di buttarmi vorrei avere una finestra, ma non è così semplice cantare per protesta.